Provo ad essere molto breve. Innanzitutto, vabbè, volevo dare appunto un quadro un attimo come prosegue la vicenda dal punto di vista legale. Quindi attualmente siamo a processo, come si diceva prima le udienze dovrebbero terminare prima dell'estate, quindi ci aspettiamo di andare a sentenza appunto prima dell'estate. Siamo accusati in 9 di insomma un totale di circa una ventina di capi, qualcosa di più, di imputazione, di cui appunto quello più rumoroso è l'associazione a delinquere, che è un po' l'impianto accusatorio che tiene assieme il tutto, ma è sostanziata questa associazione a delinquere da svariati episodi di resistenza e di occupazione, quindi sostanzialmente di resistenza contro gli sgomberi e di occupazioni di case invece di persone che appunto hanno preso la casa. Credo che sia importante sapere che al netto di quello che si potrebbe pensare, appunto, che uno dice accuse, tirate per i capelli, comunque il processo non va benissimo e quindi secondo me è abbastanza importante dirlo, nel senso che ovviamente poi dipende sempre da chi ci si trova davanti. In questo caso qua abbiamo la netta impressione che il giudice non veda l'ora di condannarci, e quindi credo che sia importante dirlo, soprattutto perché le pratiche che vengono giudicate in questo caso qua sono delle pratiche in realtà abbastanza, mi viene da dire, tenui, non tanto per l'intensità che hanno espresso, magari anche per le persone che ci hanno partecipato, ma più che altro perché sono pratiche abbastanza comuni nel patrimonio di lotta generale, soprattutto di lotta sul territorio, quindi appunto a sgomberare ogni tanto le resistenze si consistono anche semplicemente nel fatto di essere presenti, quindi di essere là davanti con uno striscione, un megafono, quindi anche veramente con poche cose. Altre volte invece ci sono episodi appunto in cui loro vorrebbero sgomberare ma la presenza delle persone li fa desistere, pur non essendoci mai magari anche delle connotazioni, quella presenza là delle persone che fa desistere la controparte, perché magari in gran numero, è sufficiente a sostanziare una resistenza. E di questo è il punto in cui siamo da un punto di vista legale, mi sembrava importante dirlo perché si sappia. Dall'altro lato vorrei parlare un attimino del quartiere, provo ad essere abbastanza rapido, del quartiere di Giambellino, perché comunque il nostro comitato era un comitato di lotta sul territorio, quindi appunto in questo territorio qua, che è il quartiere di Giambellino, che come si diceva prima appunto della memoria delle pietre, è un quartiere storico della Milano Popolare, è un quartiere in cui è nato Vallanzasca, è nata la prima colonna milanese delle Brigate Rosse, è un quartiere che ha espresso tanto da un punto di vista appunto della Milano Popolare, è uno dei quartieri delle canzoni di Nanni Svampa, di Gaber, eccetera. È un quartiere che ha sempre avuto questa conformazione qua e che tuttavia adesso sta perdendo questa conformazione. È un processo che probabilmente era già iniziato nel tempo, ma ha avuto una netta accelerazione quando è stato stanziato questo piano congiunto fra Comune di Milano, Regione Lombardia e Unione Europea, che ha stanziato 80 milioni di euro di fondi, qualcosa di più alla fine, per ristrutturare il quartiere. Risultati parziali di questa ristrutturazione si possono vedere in delle foto di questa mostra che abbiamo appeso, che hanno fatto dei compagni. Cioè, al momento questa ristrutturazione consta nel fatto che sono stati demoliti dei palazzi di case popolari, si iniziò per quelle che si possono definire cause di forza maggiore, nel senso che crollò un balcone per strada nell'estate del 2016. Crollò un balcone per strada da uno di questi palazzi, parliamo di palazzi in cui i balconi sono retti con i tubi innocenti, quindi ci sta che cadano, diciamo. E da lì partì appunto questa necessità impellente di dover demolire questi palazzi, che effettivamente uno si può anche dire non si possono ristrutturare nello stato in cui sono, ma il fatto che siano effettivamente in questo stato è frutto di una precisa scelta, non è frutto di una coincidenza, non è successo perché qualcuno se n'è dimenticato, è successo perché qualcuno ha scelto che andassero in questa direzione per poi poterne estrarre appunto un valore differente. Quindi attualmente quel palazzo là è già stato interamente demolito e al suo posto sorgerà la fermata della metropolitana, che è un altro dei grandi temi che riguarda la trasformazione di quel quartiere. che vedrà tre fermate della nuova metropolitana. Mi riferisco, quando parlo del quartiere Giambellino, in questo momento io mi riferisco principalmente al posto dove stavamo noi, che è veramente un quadrilatero, quindi una parte molto ristretta che, per chi lo conosce, va da via Audazio fino a piazza Tirana. Parliamo veramente di un fazzoletto, una zona molto molto ristretta, che però vede tre fermate della metropolitana veramente nell'arco di 700 metri, non saprei. La questione della gentrificazione poi è andata via via ad aumentare. Adesso poi non voglio rubare troppo tempo alla discussione, che probabilmente va anche sulle cose interessanti, ma mi sembrava importante far sapere che appunto tutti i luoghi dove eravamo attualmente, per esempio dove c'era la base di Solidarietà Popolare, quindi lo spazio dove il comitato si ritrovava e faceva, ad esempio, adesso non solo non esiste più, ma il palazzo in cui si trovava è completamente murato. Non so se è già iniziato l'abbattimento, ma comunque non deve. Appunto. Quale dei due? Quello di Manzano. Quello di Manzano. Altri ne devono ancora seguire gli abbattimenti. Gli svuotamenti in realtà ci sono già stati tempo fa, e i vari inquilini regolari sono stati mandati da altre parti, qualcuno anche felicemente, nel senso che comunque si gioca anche molto su questo piano del fatto che si rende il quartiere invivibile, tra virgolette, poi sempre dipende dal punto di vista, per cui effettivamente io mi ricordo, parlando con le persone, ce n'erano anche tante che erano contente di essere spostate altrove, e quindi giocando su questo piano sia poi appunto anche carta facile per poter procedere poi con queste operazioni di speculazione. Questa è, secondo me, dal mio punto di vista, la vera motivazione per cui ci sono stati i nostri arresti. Il fatto che in quel quartiere là bisognava avere un'accelerazione rispetto a questo processo qua che è in corso adesso, che vede il quartiere completamente cambiato e in corso di cambiamento. Tra l'altro, il breve inciso, c'è pure uno scalo ferroviario di cui si parlava prima, è proprio là in Giambellino, lo scalo di San Cristoforo. Credo che sia questa la vera motivazione per cui ci sono stati questi arresti, ed è una motivazione appunto di voler ripulire il campo da possibili opposizioni rispetto a questo piano qua, di voler tra l'altro addossare anche la colpa a noi, perché poi sono state queste le dichiarazioni, a noi più largo, non solo al comitato ovviamente, ma in generale agli occupanti, rispetto alla condizione delle case popolari, che comunque a Milano è una cosa molto grossa. Quando si parla di case popolari si parla di uno degli assi portanti dell'edilizia abitativa storicamente della città, e quindi voler dire che sono gli occupanti il problema, voler fare questo, appunto, questa cancellazione di questa parte qua, che è una parte che effettivamente non genera valore, non è più inserita nel contesto storico attuale della città. Appunto, poi dopo sono intervenute anche varie vicende, la nuova legge regionale che prevede la possibilità di assegnare queste case tramite privati, fare graduatorie separate, e quindi appunto, boh, adesso non mi dilungo, mi fermo qua.